Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per il consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese con Oltre la vita eterna spiegata a chi cerca. Stiamo attraversando un tema molto complesso, stiamo parlando dell'aldilà, stiamo parlando di quella realtà che sovente appare così staccata dalla vita concreta e quotidiana che ci sembra quasi un peccato doverne parlare senza prima aver risolto tutti i problemi del quotidiano. A volte ci sentiamo quasi a disagio a sollevare lo sguardo alle cose di lassù, come pure ci esorta a fare l'Apostolo, senza prima aver considerato tutti gli affari, le incombenze e gli impegni della vita terrena, quasi come se ci fosse una contrapposizione tra le due dimensioni. Eppure, l'abbiamo detto più volte, cari amici, il senso di questo pellegrinaggio terreno, che è la nostra vita, che è la vita di ogni persona umana, si può comprendere solo assimilando l'esistenza di ogni uomo a un cammino, a un viaggio, che ha una meta, una destinazione precisa, e proprio considerando e contemplando questa meta e questa destinazione possiamo sperare di trovare il senso al cammino che si sta compiendo. Allora verrebbe da dire che non soltanto è lecito affrontare argomenti che riguardano la cosiddetta escatologia, la dottrina delle cose ultime, il giudizio, la morte, l'inferno e il paradiso, mentre si compie il pellegrinaggio terreno, mentre ci si dibatte con i problemi della quotidianità, ma addirittura è doveroso farlo. Anzi, se non avessimo una prospettiva compiuta della vita, se non avessimo chiaro il significato dell'esistenza umana come cammino indirizzato ad una meta, probabilmente tutti i nostri impegni per i quali tanto ci affanniamo ogni giorno non avrebbero senso, non avrebbero significato. E dobbiamo dire la verità, il quotidiano che ci conferma come tante e tante volte le piccole e grandi fatiche di ogni giorno le sopportiamo volentieri quando sappiamo che sono finalizzate a scopi ben più alti. E allora immaginate la fatica di affrontare il lavoro di ogni giorno semplicemente per arrivare a sera, oppure semplicemente per portare a casa una paga, uno stipendio, oppure invece pensare che il proprio lavoro è un'opera. È una testimonianza, realizza la vocazione specifica che ciascuno riceve, rende gloria al nome di Dio e via dicendo. Insomma, più si solleva lo sguardo e più, invece di perdere il rapporto con le cose concrete della vita, potremmo dire così, queste stesse cose vengono sollevate a un livello più alto, acquistano proprio un valore. Ecco perché anche questa volta non ho quindi timore di parlare del paradiso, di proseguire in questo nostro conversare sull'aldilà, trattando della vita beata, di questo regno di gioia eterna che attende l'uomo. E se a volte, abbiamo detto, si può trovare una conferma di questa promessa di vita eterna che il Signore ci ha fatto, andando a considerare il centuplo che ciascuno vive sulla terra, ricordatevi quando Pietro si rivolge a Gesù, dopo che Gesù ha fatto capire che è difficile che un ricco vada in paradiso, difficile ma non impossibile a Dio, ecco che Pietro dice: ma insomma, noi abbiamo lasciato tutto, che cosa riceveremo? Che ricompensa avremo? E qui Gesù dice: beh, ma chi lascia tutto per me, lascia madri, sorelle, case, campi, avrà 100 volte tanto in questa vita e poi la vita eterna. Ed è bello vedere come queste due realtà vengano collegate in una sola grande promessa, come a dire che chi segue Gesù già ora sperimenta in questo centuplo la garanzia della veridicità di quella promessa. Quello che Gesù ha detto sarà vero, cari amici. La vita eterna ci verrà veramente donata perché Gesù mantiene le promesse. Come facciamo a saperlo? Perché quel centuplo che è garantito a coloro che lasciano tutto per seguire Dio, lo possiamo già sperimentare in questa vita. E chi tra di noi ha fatto l'esperienza della conversione, ha fatto l'esperienza di sentirsi ispirato a donare a Dio qualcosa, la maggior parte o tutto della propria vita, ecco che questo centuplo già lo ha incontrato. E allora ci siamo trovati ad acquistare 100 volte tanto in fratelli e sorelle di fede. Ci siamo trovati magari più poveri a livello materiale ed economico, ma al tempo stesso arricchiti di una fiducia nella divina provvidenza che prima non conoscevamo. Per cui, e questo è il paradosso, e tanti di voi lo sperimentano, sono diminuite le sicurezze umane, eppure ci si sente meno preoccupati, con meno pensieri. Perché? Perché sempre più confidiamo nella provvidenza di Dio Padre. Allora, questo è un indizio importante. Ma questa volta desidero presentarvi quelli che considero degli anticipi di paradiso, cioè vorrei condividere alcune esperienze dell'aldilà che confermano il paradiso e che si vivono durante il cammino terreno, durante il pellegrinaggio dell'esistenza umana. Uno potrebbe proprio chiederselo, ma esistono esperienze dell'aldilà che possono confermare tutto il bello e il buono che potremmo dire sul paradiso? Esistono. E qui non intendo fare riferimento alle cosiddette esperienze pre-morte, le esperienze ai confini della morte che vengono indicate nelle pubblicazioni specificamente dedicate ad esse con una sigla inglese, NDE, che indica Near Death Experience, appunto esperienze vicine alla morte. Non mi riferisco a queste esperienze che pure hanno portato ad un'abbondantissima letteratura in merito. Ci sono tante pubblicazioni, ma anche su internet trovate abbondanza di notizie. Perché non è facile discernere sempre l'attendibilità delle testimonianze riportate, ma anche la bontà delle esperienze stesse. Sono fenomeni descritti da individui che hanno ripreso le normali funzioni vitali dopo aver sperimentato un arresto cardiocircolatorio a causa di un trauma o di una malattia, oppure ancora riferite da persone che hanno corso il rischio di morire magari in incidenti gravissimi o durante esperienze mediche, operazioni chirurgiche, interventi particolarmente invasivi. Ecco, non sono queste le esperienze che vorrei citare. Possono avere sicuramente degli elementi utili, possono offrire utili stimoli alla riflessione, ma non è di queste che voglio parlare. Io vorrei invece parlare di anticipi di paradiso, anticipi di cielo, riguardando all'esperienza di Medjugorje. A Medjugorje, questo piccolo villaggio della Bosnia Erzegovina, in ex Jugoslavia, da oltre 40 anni, la regina della pace appare a sei veggenti. E sono queste le testimonianze che preferisco riportare perché, conoscendo personalmente, avendo incontrato più volte i sei veggenti, Maria, Visca, Ivanka, Mirjana, Jakov e Ivan, è come se i loro racconti avessero, almeno per me, una concretezza che altri, ad esempio relativi, non so, ai santi del passato o a mistici che non ho incontrato personalmente, non hanno. E per cui immaginate, potevamo portare anche altre esperienze, i racconti di San Pio da Pietrelcina, di Santa Faustina Kowalska, di San Giovanni Bosco, ma mi sembrava utile, concreto, quasi più significativo riferire di esperienze di persone, mi viene da dire come noi, normali, che hanno avuto un compito e un privilegio, ma forse più una responsabilità, di ricevere messaggi per conto della Madonna da affidare al mondo intero. E sono persone con cui ho potuto discorrere, parlare personalmente nel passato e che mi hanno raccontato alcuni di quei particolari che in questa occasione intendo riferirvi e condividere con voi. E qualcuno potrebbe anche obiettarmi, ma insomma, hanno un valore per te queste testimonianze, ma se chi ti legge, se chi ti ascolta non conosce i veggenti, non li ha mai incontrati, che valore hanno? E qui dico, ma guarda, è sufficiente andare a Medjugorje per incontrare questi testimoni, ma potremmo dire è anche sufficiente andare a cercare in quel grande tesoro di risorse che è la rete per vedere tante, tante testimonianze che forse renderebbero ancora più vivida, ecco, la loro narrazione. E adesso non è possibile chiedere ovviamente direttamente a San Paolo qual è stata la sua esperienza di paradiso. Se ricordate, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, secondo versetto, è lui stesso, San Paolo, che afferma di essere stato rapito fino al terzo cielo. Ma io oggi ho la possibilità di incontrare invece questi veggenti che hanno queste testimonianze così significative, da rendere. E li posso anche incontrare, diciamo così, attraverso le testimonianze che hanno reso in rete le interviste anche fatte a Radio Maria e pubblicate in passato. Allora, già il primo anno delle apparizioni, la Madonna concede proprio ai veggenti di Medjugorje di vedere il paradiso. E poi dice loro, è il messaggio del 2 novembre 1981, vi ho fatto vedere il paradiso per mostrarvi quale felicità attende coloro che amano Dio. È un messaggio molto sintetico, ma che già ci fa capire un po' l'essenza del cielo. E si parla di una felicità che spetta quanti amano Dio. Mi verrebbe da dire, rispetto al rapporto causa-effetto, forse ancora meglio sarebbe dire una felicità che aspetta coloro che sono amati in pienezza da Dio. È una felicità che ha le caratteristiche della perfezione, quindi è piena, durevole, infinita, senza termine, e si adatta perfettamente alle esigenze della persona. Bene, questa felicità non si può vivere in terra, non si può sperimentare, ma la Madonna mostra il paradiso a questi sei ragazzi, all'epoca avevano un'età compresa tra gli 11 e i 16 anni, per far vedere loro quello che gli spetta. E in merito a questo la testimonianza di Maria è molto, molto significativa. Dice su questa visione la veggente di Medjugorje: abbiamo visto come un grande spazio, con tante persone vestite con delle tuniche, come quelle romane, di diversi colori, e abbiamo visto che lodavano Dio ed erano pieni di gioia. E la Madonna ci ha detto che quelle persone che erano andate in paradiso avevano cercato e vissuto la volontà di Dio qui sulla terra. E ora che sono in paradiso è per loro un continuo conoscere Dio di più e un ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per loro. È chiaro che si tratta di una visione, quella che viene presentata dalla Regina della Pace ai veggenti, e quindi ci sono dei simboli attraverso i quali occorre cercare di cogliere la verità di quanto viene manifestato. Mi colpisce molto questo riferirsi a coloro che sono in paradiso come a persone che in tutta la vita hanno cercato e vissuto la volontà di Dio. È bello perché noi ogni giorno, quando preghiamo il Padre nostro, cari amici, chiediamo proprio a Dio che sia fatta la sua volontà. Ma questo compiersi della volontà di Dio passa attraverso la nostra libera accoglienza di questa divina volontà, che poi è una volontà di bene infinito per tutti i figli di Dio, per tutte quelle anime che sono chiamate a partecipare della divina figliolanza attraverso il battesimo, per tutte quelle persone che nella grazia di Dio sono raggiunte in modo misterioso ma efficace dal mistero pasquale di Cristo. Allora potremmo dire, in questo paradiso si trovano coloro che continuano a vivere una pace profonda che già avevano cominciato in terra. Mi colpisce molto questo aspetto di anticipo del paradiso perché mi fa pensare a Piccarda Donati, a questo personaggio dantesco che proprio nel paradiso, di fronte alla possibile obiezione di Dante sui diversi gradi di beatitudine che si trovano nel cielo, come a dire, ma sei contenta anche se hai meno beatitudine di chi è più in alto di te? E Piccarda dice, ma nella sua volontà è la nostra pace. Cioè, in paradiso l'anima è completamente immersa nell'accoglimento, nel desiderio, nella gioia di poter essere tutt'uno con la volontà di Dio. Ecco, quando si cerca di essere tutt'uno con la volontà di Dio anche in terra, si merita il paradiso, ma in qualche modo lo si anticipa, perché in fondo si arriva a voler desiderare quello che Dio vuole per noi. nel messaggio del 25 novembre 2021, proprio questo è il grande invito che la Madonna ha rivolto a tutti i suoi cari figli, quando ci esorta ad avere fiducia nella santa volontà dell'Altissimo. Pensate dinanzi alle grandi sciagure, ai disastri, piccoli o grandi, che toccano la nostra vita quotidiana, che arrivano a toccarci nella salute, nei beni materiali, negli affetti e financo nella nostra vita, fin quasi a portarci alla morte. Ma in tutto questo, come potremmo trovare una speranza se non riconoscessimo che la volontà di Dio è dietro ad ogni avvenimento? E badate bene, non intendo dirlo questo in senso fatalistico, ma lo dico in senso cristiano. C'è una volontà attiva di Dio che interviene nella storia, che vuole, che muove, che desidera, che ispira, che suscita e che corregge. Ma poi c'è anche una volontà di beneplacito, quando ad esempio capita che accade quell'incidente, quella malattia, di fronte ai quali l'uomo della strada, ma anche noi, l'uomo comune, si trova a dire: ma insomma, non era possibile proprio evitare questo disastro? E qui è molto utile ricordarsi che se Dio permette quel male, quella sofferenza e quella prova, è perché c'è un bene più grande che ne deriva. Proprio San Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28, ci ricorda: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E allora, di fronte ad una sventura, una sciagura, un disastro, in cui magari anche un nostro caro perde la vita, dovremmo essere capaci non di andare a scovare le ragioni ultime di ogni evento, quasi che potessimo aprire i tesori di Dio, penetrare nel profondo della sua volontà, che è insondabile per noi. Ricordiamoci che la Scrittura ci ammonisce. Quando Dio dice all'uomo: i vostri pensieri non sono i miei pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Chi può conoscere fino in fondo la volontà di Dio? Chi può conoscere il senso ultimo e recondito di alcuni avvenimenti che l'uomo fa fatica ad accettare, ad accogliere, che non si capiscono, che si vorrebbero rifiutare, che portano un dolore umanamente comprensibile, giustificabile, accettabile, ma che non possono diventare obiezione contro Dio? Noi non sappiamo qual è il senso di certe disgrazie che possono colpire l'uomo, ma abbiamo la certezza che un senso questi avvenimenti ce l'hanno, perché Gesù stesso ci ha mostrato che la croce, il male dei mali, la morte più ignominiosa per un uomo al tempo di Gesù, ha avuto un senso pieno. Ha significato la vittoria sul peccato, sul male, e proprio sulla morte, quella croce che fino allora era strumento di morte è diventata albero di vita e porta sul paradiso, inizio di resurrezione nuova aperta a tutti gli uomini. Ecco che allora accogliere la volontà di Dio non significa rifugiarsi in un quietismo che sarebbe poi eretico, in una passività assoluta. Ci mancherebbe, si tratta di impegnarsi nella vita, di mettere a frutto i talenti, le risorse e l'energia che Dio ci ha donato, ma poi di rassegnarsi in senso cristiano a quella che è la sua volontà, riconoscendo che c'è un progetto di amore più grande che, se anche non capiamo, per il solo fatto che ci sfugge, non significa che non ci sia. Ecco quindi che questo primo anticipo di paradiso, potremmo dire, è proprio quella pace grande che viene da coloro che già qui in terra incominciano ad amare la volontà di Dio. Poi c'è un particolare nella visione commentata da Maria: parla di tuniche di diversi colori, e questo elemento torna anche nel racconto di Visca. Però, parlando di Visca, che è un'altra dei sei veggenti di Medjugorje, non posso fare semplicemente riferimento alla visione che tutti i veggenti hanno avuto del paradiso in quel novembre 1981, ma racconto di un'esperienza radicalmente diversa. La veggente ne rende conto nel corso di una lunga intervista di alcuni anni fa a Padre Livio, direttore di Radio Maria, e fa capire come Visca non ha avuto semplicemente una visione del paradiso come gli altri veggenti, ma ha compiuto un vero e proprio viaggio nell'aldilà. E questo avviene circa un anno dopo la visione che hanno avuto anche gli altri veggenti. Siamo nel novembre del 1982, Si trovava a casa di Jacob, il più piccolo dei veggenti, aveva appena 10-11 anni. Ma lasciamo proprio raccontare Visca, cito la sua esperienza. Io e Jacob, dice la veggente, di ritorno da Citluk, non lontano da Međugorje, siamo andati a casa sua, dove c'era sua mamma. Nella casa di Jacob c'è una camera e una cucina. Sua mamma era andata a prendere qualcosa per prepararci da mangiare, perché un po' più tardi avremmo dovuto andare in chiesa. Mentre aspettavamo, io e Jacob ci siamo messi a guardare un album di fotografie. Improvvisamente Jacob è andato giù dal divano prima ancora di me, racconta Visca, e ho capito che la Madonna era già arrivata. Ecco, c'è un'apparizione improvvisa. La Madonna irrompe nel quotidiano di questi due veggenti. Subito ci ha detto: Tu, Visca, e tu, Jacob, venite con me a vedere il paradiso, il purgatorio e l'inferno. In un attimo, la Madonna ha preso me per la mano destra e Jacob per la mano sinistra, e il tetto si è aperto per lasciarci passare. Questo sembra un racconto che ha del fantastico, dell'incredibile, ma considerate il fatto che questo racconto fantastico, incredibile, ha però dei particolari che lo rendono estremamente credibile, dei particolari che se fosse semplicemente frutto di fantasia, evidentemente non sarebbero stati inseriti, sarebbero stati trascurati. Infatti precisa su questo tetto che si apre per far uscire nel cielo i due veggenti con la regina della pace, precisa Visca, non si è aperto tutto, ma solo quella parte che era necessaria per farci passare. In pochi istanti siamo arrivati in paradiso. Mentre salivamo, vedevamo giù in basso le case piccole, più piccole di quando si vedono dall'aereo. Ecco, questi sono particolari che chiaramente vanno presi, come sempre, con il senso di quei particolari che esperienze mistiche, al di là dell'ordinario, consentono. Per cui si parla di, arrivare in pochi istanti in paradiso, ma questo luogo è lontanissimo, tanto che le case erano più piccole di quando si vedono dall'aereo, vuol dire che erano molto molto in alto, distaccati dalla terra. È chiaro, questo fa pensare al paradiso come un luogo, quando sappiamo che è una condizione dell'anima, eppure nella sua fisicità questa rappresentazione del viaggio fa capire la concretezza dell'esperienza che di lì a poco i due veggenti avrebbero vissuto. Ma lasciamo ancora raccontare, cari amici Visca, tenendo ben presente quanto ha appena testimoniato. Non si è trattato di una semplice visione, lo ripeto, come hanno avuto i veggenti, ad esempio, di Fatima, quando è stato rivelato loro il segreto dell'inferno. La Madonna mostra loro l'inferno. Non si tratta di una visione come gli stessi veggenti hanno avuto un anno prima, nel novembre 1981, bensì di un vero e proprio viaggio compiuto col corpo, tanto che hanno anche testimoniato quando la madre di Jacob rientra in casa dopo che era andata a comprare qualcosa perché potessero fare merenda, non trova nessuno e deve attendere il tempo necessario al loro ritorno, pochi minuti, ma di una intensità indimenticabile per i due veggenti. Dunque Visca dice di essere giunta in un grande spazio. C'è una porta di legno, grande. Era chiusa, ma la Madonna l'ha aperta e noi vi siamo entrati. A destra della porta c'era San Pietro. Ho capito subito che era lui, con una chiave, piuttosto piccolo, con la barba, un po' tarchiato con i capelli. Ecco, questo è un particolare che mi colpisce ogni volta che riprendo in mano questa testimonianza, perché è una conferma pur simbolica di due verità. Anzitutto che la Madonna è proprio la porta del cielo, Ianua Caeli, come viene invocata nelle litanie lauretane del Rosario, perché è lei che apre la porta del paradiso. È come se Pietro fosse custode di una porta che però l'Immacolata ha il compito di aprire. E in secondo luogo, beh, San Pietro si conferma colui che ha le chiavi per aprire e per chiudere, per sciogliere e legare, secondo la promessa che Gesù gli fa e che ritroviamo nel capitolo 16° del Vangelo secondo Matteo. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Ecco quindi che fin dal primo squarcio di visioni di paradiso, Visca porta alcuni particolari che hanno una rilevanza teologica importante. E questo, cari amici, lo dico perché nella povertà del racconto veramente essenziale, semplice, che Visca, Jacob, gli altri veggenti di volta in volta hanno reso, emerge però una grande verità. La verità di particolari così significativi che non si può dubitare della veridicità, dell'autenticità del loro racconto. Possiamo dire che la ricchezza di questi particolari ci ricorda quello che è successo quando a Santa Bernadette, la bella signora che le appariva già da qualche tempo, le ha finalmente rivelato la propria identità. Ricordate, era l'apparizione del 25 marzo 1858 a Lourdes. Bernadette ha chiesto più volte alla signora: chi siete? Qual è il vostro nome? La gente la premeva perché potesse chiedere il nome e un segno. Il segno sarà poi quello della fonte miracolosa. E quando c'è da dare il nome, il 25 marzo, la Madonna dice a Bernadette: io sono l'Immacolata Concezione. E noi sappiamo che questa terminologia, questa espressione molto particolare, fa riferimento a un dogma ben preciso che era stato sancito con la bolla Ineffabilis Deus del 1854 da Papa Pio IX. La Madonna è stata concepita immacolata, cioè senza peccato originale, un dogma rilevantissimo che in realtà si prefiggeva, cari amici, di difendere una verità di fede che il popolo riteneva vera, giusta e buona e accoglieva con fede profonda fin dalle origini del cristianesimo, ma che proprio nell'Ottocento era stata messa in discussione perché il modernismo, che faceva di ogni elemento religioso trascendente una semplice produzione dello spirito umano, diciamo appiattendo tutto quello che è il religioso e il trascendente a livello umano, e beh, la trascendenza andava anche a toccare questo concepimento immacolato, che quindi cominciava a essere messo in dubbio. Si cercava, si diceva anche con buone intenzioni, di liberare la religione dalle superstizioni del passato, dagli inganni e dagli errori. E così facendo la si riduceva a un'opera puramente umana e della Madonna si faceva una semplice madre terrena. Ma come poteva colei che era l'arca della nuova alleanza, il tabernacolo vivente di Cristo, non avere una purezza incomparabile? E proprio in virtù dei meriti di Cristo, pensando al privilegio di divenire la Theotokos, cioè la madre di Dio, ecco che la Madonna ribadiva invece Pio IX nel 1854, contrastando ogni critica di segno opposto, ecco che la Madonna era invece stata concepita senza peccato originale. Non poteva, cioè, questo grembo virginale avere alcunché da spartire con la condizione terrena dell'uomo ormai segnato dal peccato originale. E questo è molto importante perché sono passati appena 4 anni quando Bernadette si trova a sentir dire queste parole, di cui non conosce il significato. Bernadette ha appena 14 anni, non ha quasi nessuna erudizione di catechismo. Allora si ripete questa espressione in mente, velocemente, più e più volte, e corre dal parroco per dare finalmente la risposta tanto attesa. E quando dice al parroco: la signora ha detto, io sono l'Immacolata Concezione, il parroco non ha più dubbi, perché è un'espressione talmente alta, talmente profonda, che questa ragazzina non può essersela inventata. Ecco, analogamente, un simile procedimento bisogna mettere in gioco anche quando ci riferiamo ai racconti dei veggenti di Međugorje. Come a Lourdes, questa verità dell'Immacolata Concezione viene rivelata il 25 marzo, che è la festa dell'Annunciazione, come a dire: l'annuncio dell'angelo a Maria che porta al concepimento nel grembo virginale di Maria del Verbo di Dio si lega all'Immacolata Concezione, che ne era un po' la condizione preparatoria, per cui Bernadette non poteva neanche inventarsi il giorno in cui era teologicamente più fondata la risposta da dare. Così parimenti, alcuni particolari che sembrano trascurabili, la Madonna che apre la porta del paradiso, San Pietro con le chiavi in mano, in realtà diventano indizi di credibilità. Io lo ripeto, di fronte a tutte queste esperienze che altri riferiscono e che hanno la loro concretezza perché hanno a che fare con persone che ancora oggi sono vive in carne e ossa, che si possono incontrare, in cui si può parlare, si possono trovare, lo ripeto, in tanti libri, in tante testimonianze scritte, ma soprattutto in rete, e quindi con interviste, con video che rendono ancora più efficace e pregnante questo racconto. Beh, ma in tutti questi racconti ci sono indizi di verità grandissimi. Questo non significa che queste siano delle prove provate. È chiaro che poi c'è sempre quel gioco, quel margine di fede che ognuno è chiamato a mettere in gioco. Ed è chiaro, come dicevo in apertura, che probabilmente il centuplo in terra diventa un argomento ben più cogente per chi lo vive, sulla, credibilità dell'esistenza del paradiso, di quanto non sia invece una testimonianza, seppur, coinvolgente e toccante, riportata però da terzi. Comunque andiamo ancora avanti con il racconto di Visca. Appena entrati, siamo andati avanti, camminando forse 3-4 metri. Non abbiamo visitato tutto il paradiso, ma la Madonna ce l'ha spiegato. È interessante questo, c'è un mix tra un'esperienza mistica di tipo spirituale e una di tipo invece intellettuale. Abbiamo visto un grande spazio avvolto da una luce che non esiste qui sulla Terra. Abbiamo visto le persone che sono né grasse né magre, ma tutte uguali, e hanno vesti di tre colori, il grigio, il giallo, il rosso. Le persone camminano, cantano, pregano. Ci sono anche dei piccoli angeli che volano. La Madonna ci ha detto: guardate quanto sono felici e contente le persone che si trovano qui in paradiso. È una gioia che non si può descrivere e che qui sulla terra non esiste. Ecco, è molto bello vedere come anzitutto la Madonna conferma nell'esperienza che fa compiere a Jacob e Visca con questo viaggio in paradiso, conferma che l'essenza del cielo è proprio la gioia. E poi si presentano queste persone che Visca vede come fisicamente perfette per indicare che alla resurrezione dei corpi riceveremo un corpo glorioso e trasfigurato come quello del risorto. Altri intendono invece che il fatto che le persone siano tutte uguali, né grasse né magre, vuol dire che in realtà non sta vedendo ancora le persone risorte, come sarà alla fine dei tempi, ma Visca sta vedendo il paradiso come è adesso, un paradiso popolato di anime. Perché, cari amici, finché non ci sarà la fine del mondo, non ci sarà la parusia, il ritorno di Cristo, il giudizio universale, non ci sarà la resurrezione dei corpi. E allora come si fa a far capire che sono anime? Si fanno vedere delle figure in sembianze umane tutte uguali tra di loro, semplicemente diverse per i colori. Potremmo pensare che le tuniche con i colori diversi sono magari lo specchio delle diverse virtù che sono state praticate durante la vita da queste anime. Ci sono anche angeli. E quindi si capisce che il luogo non è semplicemente un luogo di felicità naturale, un paradiso terrestre, ma è un luogo trascendente. È un luogo dove ci sono anche presenze angeliche, quei puri spiriti che, creati in principio da Dio, dal primo istante hanno dovuto decidere se essere con Dio o contro Dio e si sono divisi negli angeli buoni, fedeli al Signore, capitanati da San Michele Arcangelo, e gli angeli ribelli, che sono invece guidati da Lucifero, l'angelo di luce che è decaduto, ribellandosi per orgoglio al Creatore. Ancora, la veggente dice proprio che la Madonna spiega un po' come è fatto il paradiso, ma non spiega il significato dei colori delle tuniche. Però conferma di aver visto questi angeli e precisa Visca che sono come dei bambini piccoli, hanno le ali e volano al di sopra delle persone che sono in paradiso. Anche qui sono elementi simbolici, lo ripeto, non è che questo elemento degli angeli ci deve far dire allora in paradiso tutti gli angeli sono piccoli. E quando noi pensiamo all'incontro di Tobia con l'arcangelo Raffaele, piuttosto che la Madonna che incontra l'arcangelo Gabriele, beh, immaginiamo delle figure adulte, anche imponenti, ieratiche, autorevoli. Però quello che conta è il valore simbolico che dice una grande verità. E c'è sicuramente un livello di purezza, di innocenza in queste presenze che dicono che è un paradiso inteso come luogo celeste, non semplicemente, lo ripeto, come un luogo naturale. Accanto al racconto di Visca, troviamo ugualmente molto interessante la testimonianza che Jacob rende nel corso di una lunga intervista con Padre Livio proprio su Radio Maria. Anche Jacob racconta quello che ha vissuto ed è molto interessante perché, a differenza di Visca, che all'epoca aveva 16 anni, Jacob ne aveva appena 11 e quindi vive questa esperienza con l'ingenuità e anche con un misto di timore e tremore, come si conviene di fronte al soprannaturale. Anche in questo caso preferisco lasciare che sia proprio la viva voce di Jacob a raccontare quello che ha vissuto in quel novembre 1982, quando lui e Visca sono stati presi per mano dalla Madonna e portati in paradiso, per vedere la consistenza, la significatività di questa esperienza di anticipo di paradiso. Entriamo in questo spazio immenso, una luce bellissima, nella quale si può vedere dentro. Quindi è una luce luminosissima, ma non abbagliante, non è la luce del sole che ferisce la vista. Gente, tanta gente, e gente, dice Jacob, che era vestita con vesti lunghe, le tuniche di cui già parlava Visca. La gente cantava delle canzoni, ma non abbiamo capito che cosa. Le voci erano bellissime. Questo è un bel particolare, il fatto che pregano e cantano con voci bellissime mi fa pensare che un anticipo di paradiso, oltre al vivere nella volontà di Dio il quotidiano, anticipando quella pace che darà il paradiso stesso come piena immersione dell'anima e della persona nella divina volontà, beh, un altro anticipo di paradiso potrebbe essere forse la liturgia, ecco, della Gerusalemme celeste, che si può anticipare, vivere, intuire nel nostro cammino terreno ogni volta che celebriamo il culto. Pensate alla bellissima tradizione della Chiesa, dell'ufficio delle ore. Quanti di noi pregano le lodi, l'ora media, i vespri, la compieta, l'ufficio delle letture, fanno un bellissimo gesto di preghiera, intanto perché si prega quella che è la preghiera universale, cioè tutta la Chiesa in quel giorno prega con quei salmi, con quelle letture, poi perché ci si unisce a una preghiera che è consegnata dalla Chiesa stessa attraverso la parola di Dio, si pregano i salmi, che sono la parola di Dio che più si presta ad essere oggetto di lode, di preghiera cantata. E diciamo pure che quando abbiamo avuto l'esperienza di qualche visita, magari a monasteri di clausura, mi viene in mente il monastero dell'Abbazia Mater Ecclesiae sull'isola di San Giulio, Lago d'Orta in provincia di Novara, beh, mi viene in mente ad esempio che sentire le monache benedettine lì fondate dalla madre Canopi, che cantano l'ufficio delle ore, è qualcosa di celestiale. Ma non soltanto per la bellezza canora di quello che si può ascoltare, ma perché si sente il trasporto religioso, la fede, la comunione profonda che queste monache vivono tra di loro, al punto da arrivare a sentirsi partecipi di una liturgia celeste che stanno anticipando, alla quale anelano e che soltanto devono aspettare di poter incontrare e di poter vivere. Ecco, allora è bello perché il nostro pregare, anche cantando i salmi ogni giorno, se viene fatto bene, fatto col cuore, offerto a Dio, è proprio un anticipo di paradiso, perché in cielo potremo cantare e lodare a Dio esattamente in questo modo. Ecco perché è molto attento questo particolare, no? Che Jacob riferisce. Bisogna essere capaci di coglierne il grande significato. Voci bellissime che cantavano. Poi sulle voci bellissime sappiamo che la bellezza della voce in terra dipende dai talenti, dalle doti, dall'esercizio. Invece, diceva San Tommaso che la bellezza della voce in paradiso dipende dalla purezza delle anime. E la voce più bella, dopo quella della Madonna, affermava l'Aquinate, è la voce di Santa Maria Maddalena. È molto bello questo particolare perché, pensando a quanti cantano in cielo in eterno le lodi di Dio, la purezza della Maddalena è una riconquista, anzi un dono che per grazia Dio stesso le ha fatto. Allora immaginate se ogni volta che cantiamo con il cuore aperto, con la voce squillante, le nostre lodi a Dio nella preghiera, con i salmi della Chiesa, immaginate se facendo questo tenessimo presente che è una profezia di una purezza del cuore che ci verrà donata quando saremo pienamente partecipi della vita beata. Prosegue ancora il racconto di Jacob. Dopo che ha visto questa gente che cantava con voci bellissime, dice: però la cosa che più mi ha colpito è stata proprio quella gioia che vedevi sul viso di quella gente. Ed è quella gioia che senti dentro, perché finora abbiamo parlato della paura, ma quando siamo entrati in paradiso, in quel momento si sentiva solo la gioia e la pace che si possono sentire nel paradiso. Ecco, intanto Jacob precisa bene, no? Abbiamo parlato di paura, non soltanto la paura che può suscitare la visione dell'inferno, ma anche la paura per la partenza in questo viaggio. Sovente si riporta l'aneddoto per cui al momento di partire, Jacob sarebbe stato preso da grande paura e a sentir visca, sarebbe successo questo simpatico aneddoto. Quando la Madonna ha detto venite con me, entrambi hanno pensato per un attimo, ma allora forse è giunto il momento della morte, siamo giunti alla fine della vita. E Jacob avrebbe detto alla Madonna prendi visca, loro sono in tanti fratelli, io sono figlio unico. Poi Jacob di solito smentisce questo aneddoto, ma è interessante perché dice come ad appena 11 anni sicuramente il veggente si è trovato a vivere un'esperienza ben superiore alla media delle esperienze che vivono ragazzini della sua età. E qua dice però non parliamo più di paura, parliamo di gioia. Si vedeva sul loro volto. Ecco, ma anche questa è una caratteristica importante perché anche la gioia è un anticipo di paradiso. Noi sappiamo che siamo chiamati da Gesù a camminare secondo i suoi comandamenti, a camminare nella sua legge, perché ci venga donata, dice nel capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni, Gesù stesso, ci venga donata la sua gioia piena. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E questa gioia, ha detto più volte anche la regina della pace a Međugorje nei suoi messaggi affidati ai veggenti, è proprio un segno dell'incontro con Dio, perché la gioia vera, quella che il mondo non può dare, la gioia piena, la gioia autentica, quella che dura sempre, quella che neanche le tribolazioni del mondo ti possono togliere, soltanto Dio te la può far scendere nel cuore. E la gioia vera si vede sul volto, e non è quell'euforia momentanea, quella risata sguaiata che anche il mondo ti sa donare di tanto in tanto, è una gioia profonda che rimane e che si vede negli occhi, che si vede nel sorriso, che si vede in tutta la tua figura, nella luce che fa brillare il tuo volto. Bene, proprio questa luce e questa gioia è quanto hanno colpito di più l'animo di Jacob. In quel momento lui stesso dice: sentivo anch'io questa gioia, anch'io nel mio cuore ho gustato quella gioia e quella pace che si sentono in paradiso. Per questo, tutte le volte che mi chiedono com'è il paradiso, non mi piace molto parlarne, perché ritengo, dice Jacob, che il paradiso non è quello che noi vediamo veramente con i nostri occhi, il paradiso è quello che vediamo e sentiamo nel nostro cuore. Guardate che profondità di racconto teologico un bambino di 11 anni. Il paradiso, dice, non è anzitutto quello che vedo con gli occhi, ma quello che sento col cuore. Ora, a 11 anni, quando sei nel pieno dell'energia, dei giochi, delle corse, dei salti, ma il bambino più che un pensiero astratto e un moto di introversione, tende a manipolare e a interagire con la realtà esterna, lo sa chiunque si occupi di educazione. E invece qui Jacob fa un moto esattamente opposto, entra nel profondo di sé e coglie l'essenza del paradiso. Questo lo dico ancora una volta come conferma della credibilità profonda di questa bella testimonianza. Il paradiso è quello che vediamo e sentiamo nel nostro cuore. Una gioia immensa, una pace, una voglia di rimanere, di stare sempre lì. È uno stato in cui non pensi a niente e a nessuno, ti senti rilassato in tutti i modi, un'esperienza incredibile. E invece un'esperienza, vorrei dire io, profondamente credibile, perché la cosa anche molto interessante è il dire questo desiderio di stare sempre lì. In altre esperienze mi viene in mente il bellissimo viaggio mistico compiuto alle porte dell'inferno da Gloria Polo nel 1995, questa mistica colombiana che tante volte è anche venuta in Italia per raccontare la sua esperienza, e quando si è trovata di là, voleva rimanere là, e poi invece sentiva la voce del marito e dei figli che dicevano: Gloria, ritorna, ma lei non voleva. Ma questo non volere non significa che non andasse d'accordo col marito, non significa che non avesse un buon rapporto con i figli, non amasse la propria famiglia, al contrario, vuol dire che quello che si incontra nell'aldilà, nel paradiso, nel cielo, è ben più forte di quello che possiamo, pur bello, incontrare, vivere, sperimentare su questa terra. Per cui anche Jacob dice: io ho sperimentato perché ho sentito dentro di me quella stessa gioia, quella stessa pace. Per cui immaginate quanto diversa doveva essere la sensazione interiore che viveva Jacob. Aveva paura di partire quando ancora non ha fatto quell'esperienza, ma adesso, vissuto il paradiso, sentita la grandezza di quella pace, quella gioia profonda che solo il paradiso può donare al cuore dell'uomo, forse non avrebbe più avuto paura a ricompiere una successiva esperienza simile a quella, e forse non avrebbe avuto paura a dire: io rimango qui. Lo ripeto, bisogna ricordare che Jacob sta raccontando quello che ha vissuto ad appena 11 anni, eppure descrive l'esperienza soprannaturale con una tale profondità, intensità, con un profondo senso teologico, che a parer mio anche questo va considerato come indizio di veridicità e credibilità di questa testimonianza. E soprattutto, voglio ribadirlo, è bello vedere che il paradiso è anzitutto gioia, una gioia piena, perfetta, inesprimibile, che non si vede con gli occhi ma che si sente nel profondo del cuore. Credo che questo sia anche un monito implicito, a me per primo, ma anche a tutti voi che siete all'ascolto, a non cedere alla tentazione della mera curiosità quando si tratta del paradiso, comprendendo invece che occorre rispetto, semplicità e quasi timore nel parlare di una realtà così alta e misteriosa. Non possiamo essere tentati, cari amici, di superficialità al parlare del regno dei cieli. E dovremmo invece imparare da questi racconti, al pensare che un bambino di 11 anni e una ragazzina di 16 hanno avuto così profonda delicatezza nel restituire un'esperienza tanto straordinaria. Nel suo viaggio, Jacob era accompagnato dalla Madonna e racconta proprio quello che la Madonna gli ha riferito. La Madonna non si limita ad essere una presenza rassicurante, ma dà anche alcune indicazioni ai veggenti che ha accompagnato in paradiso. E incomincia dicendo: la Madonna ha detto che in paradiso va la gente che è rimasta fedele a Dio. È per questo che quando parliamo del paradiso, ora possiamo richiamare, dice Jacob, questo messaggio della Madonna che dice: io sono venuta qui per salvarvi tutti e portarvi tutti un giorno da mio figlio. Così tutti potremo conoscere quella gioia e quella pace che si sentono dentro. Quella pace è tutto ciò che da Dio ci si può aspettare e per sperimentarla in paradiso. Ecco, è bello perché la Madonna ha un compito preciso. Lei è venuta per dirci che il paradiso c'è. In fondo il senso di questa esperienza è proprio questa. In queste parole anche che chiudono, la testimonianza di Jacob, c'è una conferma della ragione che spinge il cielo a donarci da oltre 40 anni la presenza di Maria Međugorje. La Madonna appare da così tanto tempo a Međugorje perché vuole condurre l'umanità a quella gioia del paradiso che Jacob e Visca hanno potuto gustare in anticipo durante il loro viaggio nell'aldilà. Un viaggio, come tutti i viaggi nell'aldilà, completo, poi i veggenti hanno avuto modo anche di vedere il purgatorio e l'inferno, ma questa esperienza del paradiso è quella che avevo a cuore in questa occasione di condividere, perché del paradiso stiamo trattando in questo nostro lungo percorso escatologico. La Madonna viene per salvarci, viene per portarci da suo figlio. Viene per dirci che il paradiso c'è. Come fa la Madonna a donarci la certezza del paradiso, visto che di anticipi di paradiso stiamo parlando adesso? Ma penso che la sua stessa presenza è un anticipo di paradiso. Se voi pensate ai veggenti che hanno potuto vedere tante e tante volte la regina della pace durante le apparizioni, durante le loro estasi, ma pensate anche a quando, nei primi tempi, hanno potuto abbracciare la Madonna. Pensate a quella famosa apparizione il 2 agosto 1981, quando i presenti hanno chiesto e hanno ottenuto di poter toccare il vestito della Madonna. Poi questo vestito rimaneva sporco per i peccati di molti dei presenti, e allora ecco che da lì la Madonna dice: guardate che non tutti sono in grazia di Dio, e si cominciano a vedere quelle lunghe file davanti ai frati seduti sulle sedioline, no? Al fianco della chiesa, perché in chiesa non c'era posto, tanti erano i penitenti che volevano confessarsi. E beh, la gente aveva toccato il vestito, non vedeva nulla, ma sentiva qualche cosa. Allora, la Madonna che dà segni così chiari della sua presenza, che cosa ci sta dicendo? Io sono viva. E se lei, che è vissuta 2000 anni fa come madre di Gesù sulla terra, è viva, è evidente che il paradiso c'è, che lei è proprio la primizia della resurrezione, come la Chiesa ci insegna a credere. La Madonna stessa, con la sua presenza, con la sua venuta, è segno di questo paradiso. Allora, vedete come abbiamo parlato di questi anticipi del paradiso mettendo insieme elementi diversi. Abbiamo parlato anzitutto delle esperienze mistiche, straordinarie, reali che hanno compiuto i veggenti di Međugorje, in particolare Jacob e Visca. E uno potrebbe dire: ma queste esperienze sono davvero un privilegio di pochi, e per quanto le testimonianze appaiano autentiche e credibili, però sono testimonianze di esperienze che loro hanno vissuto, ma noi? Quando vi dico: ma la Madonna ogni volta che si presenta ti dice il paradiso c'è, e stare di fronte alla Madonna è un'esperienza di paradiso, e uno potrebbe avere la stessa obiezione: ma i veggenti hanno questo privilegio, ma noi? E qui mi piace ricordare un'esperienza che ho vissuto ormai una quindicina di anni fa, quando mi trovavo a Milano con il veggente Ivan. E Ivan ha fatto un soggiorno di un paio di giorni per incontri di preghiera, testimonianze. Erano quegli incontri che si organizzavano a Milano con 20-25 mila persone, una manifestazione di bisogno di Dio davvero bellissima, commovente. E per 2 giorni ho accompagnato appunto Ivan, gli davo una mano facendo un po' di servizio di traduzione dall'italiano all'inglese. E poi il lunedì, mi ricordo che era ancora in Italia, e mi dice: ma potremmo fare un giro ancora a Milano? Ho detto: ma no, guarda, vieni da me. Io sto a Casale Monferrato, sono in una bella zona di campagna, c'è cioè un po' di collina, e ti porto in un santuario che ho molto caro. E siamo andati al santuario della Madonna Assunta di Crea, che dista 20 km da Casale Monferrato. E abbiamo vissuto una mezza giornata normale. Siamo andati a messa, abbiamo pregato il rosario, abbiamo passeggiato, ed è stato bello perché dici: ma è bello vivere cose normali così, ma sapere che c'è vicino a te una persona che vede la Madonna tutti i giorni, perché Ivan ha apparizioni ancora oggi quotidiane, avendo ricevuto soltanto 9 dei 10 segreti. E poi a un certo punto del pomeriggio dico: ma senti Ivan, oggi è un giorno un po' particolare, era il 3 aprile, che è il mio compleanno, mi potresti fare un regalo? Dice: cosa? Andiamo giù a Casale, in una casa di amici, e stiamo lì per la preghiera. E Ivan, sapete che è timido e non avrebbe preferito stare per conto nostro, da soli, no? Però ha accettato, e siamo andati a casa di amici. E cosa è successo? Che dopo pochi minuti che siamo entrati, un po' di raccoglimento nella preghiera e Ivan ha avuto l'apparizione. La Madonna le è apparsa, io ricordo molto bene, nel salotto di questa famiglia di amici, eravamo poi 6-7 persone, non di più. E il clima di raccoglimento, di stupore, ma di commozione profonda che si è creato. E a un certo punto, Ivan, finita l'apparizione, ha raccontato che la Madonna era venuta nella gioia, che aveva pregato in modo particolare per i malati e per i sacerdoti. E tra di noi c'era un sacerdote, ma in borghese, che è scoppiato a piangere e dirà successivamente di aver sentito la presenza di Maria durante l'apparizione, di aver visto come un lampo di luce che aveva preannunciato la sua venuta. Ma la cosa che mi ha colpito di più è una parola che è rimasta a tutti. Quando Ivan ha detto: "Adesso questa casa è benedetta, ricordatevi che per avere la Madonna così vicina a voi non dovete venire per forza a Medjugorje e non dovete per forza pregare con un veggente. Basta che preghiate il rosario a casa vostra e la Madonna è sempre presente vicino a voi." Ecco, questo è un racconto che mi sono sentito di condividere tra i diversi anticipi di paradiso, intanto perché è stato un momento bellissimo, un'intensità di preghiera, di raccoglimento, davvero toccante, ma poi perché? Perché secondo me è ancora un indizio su questo fenomeno così complesso e ricco che sono le apparizioni di Medjugorje, perché un veggente che con grande sincerità dice: "Ma non è necessario che tu venga a Medjugorje, perché la Madonna è con te quando tu preghi", beh, mi fa pensare che sia veramente credibile, affidabile in tutto il suo raccontare e il suo testimoniare. E poi perché allora vuol dire che quando noi preghiamo con il cuore aperto a Dio, alla sua grazia, alla sua misericordia, il cielo si fa vicino a noi, la Madonna si rende presente vicino a noi e noi facciamo quell'esperienza di anticipo di paradiso che soltanto sarà poi in cielo completa, perfetta ed eterna. Abbiamo parlato anche di altri elementi, però, come anticipi di paradiso, in questa occasione, cari amici, il fatto di sperimentare quella pace profonda che è propria di chi vive abbandonandosi alla divina volontà in questo tempo di pandemia, dove ancora tante sono le inquietudini che ci assalgono, le paure, i sentimenti di divisione, di scoraggiamento, di sfiducia, la preoccupazione per il futuro del mondo, dell'umanità, il timore che le crisi sanitarie, ma anche economiche, morali, spirituali vadano sempre più inasprendosi. E sappiamo che questo non ci stupisce perché siamo alla vigilia del primo combattimento escatologico, della lotta della donna vestita di sole contro il dragone infernale, che poi è il tempo dei segreti, che poi è il preludio del trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma in tutto questo, come potremmo non essere preda del timore, della paura, se non affidandoci alla volontà di Dio e trovare quella pace che è anticipo della pace che c'è in paradiso? E ancora abbiamo visto l'ultimo elemento, forse quello, lasciatemi usare questo termine, più simpatico, insomma, è il più democratico, la gioia profonda. In paradiso c'è la gioia, ha detto la Madonna in un messaggio del 1991, e questa gioia che Jacopo ha sentito nel cuore, entrando nel paradiso accompagnato dalla Madonna in questa esperienza mistica che vi ho presentato in questa conversazione, beh, questa gioia, cari amici, il Signore la riserva anche a noi. La riserva anche a noi perché ci chiede di camminare secondo la sua legge, di essere in profonda comunione con lui e di poter così, giorno per giorno, sperimentare quella gioia che in paradiso sarà assolutamente piena, ma che già qui in terra rivela una pienezza che dice della sua origine trascendente, che dice della presenza di Dio intorno a noi e dentro di noi. Siano questi davvero i segni, ecco, di quegli anticipi di paradiso che ci rendono certi che al termine di questo pellegrinaggio terreno, se avremo camminato con fedeltà nei confronti di Dio, potremo incontrare Lui, che è il nostro amore, la nostra pace e la nostra gioia. Ecco, cari amici, il tempo a nostra disposizione ormai volge al termine e quindi mi tocca salutarvi, ovviamente augurando a tutti un buon cammino di vita e di fede, chiedendovi di pregare per me, di pregare tanto per il Santo Padre, per tutta la Chiesa, sacerdoti e pastori in particolare, affidando alla preghiera della grande famiglia di Radio Maria tutti coloro che tra di noi sono malati nel corpo e nello spirito. Da parte di Diego Manetti, un cordiale saluto. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.